inizialmente avevamo convocato lo sciopero con ampio anticipo per il 30 novembre. Venerdì scorso la commissione di garanzia ci ha comunicato che lo sciopero sarebbe stato vietato perché non rispettava, secondo loro, la franchigia di 10 giorni che ci deve essere di distanza tra lo sciopero dei medici di venerdì scorso e il nostro delle cooperative sociali, in quanto lavoratori che comunque insistono sullo stesso bacino d'utenza, quindi socio-assistenziale. Il problema è che hanno avuto 15 giorni di tempo per comunicarcelo, hanno violato il loro stesso regolamento, per cui avrebbero dovuto dircelo entro 24 ore dalla nostra proclamazione, ma tant'è, siamo qui e abbiamo dovuto riconvocare lo sciopero per il 14 dicembre prossimo. Abbiamo mantenuto il presidio il 30 novembre in piazza Vidoni a Roma perché sembrava giusto non dare un segnale di resa, anche perché avevamo calendarizzato degli appuntamenti sia alla funzione pubblica che al Senato sulle questioni sulla piattaforma dello sciopero. Insomma. Prima con Sabrina abbiamo parlato un po' del loro ruolo e delle loro rivendicazioni come studenti e studentesse. Ti chiederei ora un po', diciamo, le rivendicazioni principali invece vostre, diciamo, che porterete in piazza il 30. Che poi saranno anche quelle dello sciopero riconvocato del 14 di dicembre. Nelle cooperative sociali, in particolare nel settore del mondo educativo, sono mesi che viviamo, diciamo, una profonda arrabbiatura per un riordino professionale che riguarda le figure degli educatori professionali, imposto dall'alto, che separa nettamente due percorsi formativi, quello di educatore professionale che sta in capo a medicina e quello che invece viene fuori dai percorsi universitari di scienza e la formazione, impone agli uni l'iscrizione all'albo, agli altri impone tutta una serie di riqualifiche e in ogni caso impone il fatto di non poter lavorare per gli ambiti specifici per i quali sono formati. In sostanza, questa riforma lascia fuori anche dalla possibilità di iscriversi all'albo, quindi gli educatori di medicina, parecchie migliaia di educatori, mette a rischio i posti di lavoro perché queste riforme non fotografano lo stato dell'arte, per cui nel corso degli anni gli educatori hanno fatto dei concorsi anche nel pubblico, quindi lavorano in ambiti specifici. In più c'è il problema veramente, veramente grande di migliaia di educatori occupati nelle cooperative sociali senza titolo, perché questo è stato potuto fare nel corso degli anni, le cooperative hanno potuto assumere gente con funzioni e mansioni da educatore pur non avendo il titolo, i quali sono anch'essi a rischio di esclusione dai posti di lavoro, per i quali andrebbe prevista una riqualifica onerosa di tasca propria, si dovrebbero pagare tra i 600 delle università online ai 1.600-1.800 euro per le riqualifiche alle università. Insomma, pensiamo che, ecco, noi lo pensano in tanti, questo riordino professionale sia veramente fatto sopra la testa degli educatori. Questo per quanto riguarda l'aspetto educativo. Nella piattaforma più generale c'è una rivendicazione del fatto che il sistema degli appalti, così come lo abbiamo conosciuto, ha veramente esaurito ogni sua funzione anche ideologica. Noi pensiamo che vada fatto un punto della situazione oggi, per cui le amministrazioni pubbliche debbano cominciare dei processi di reinternalizzazione delle figure che stanno in capo alle cooperative sociali, che si occupano di sanitario, di assistenziale, di educativo, perché è veramente arrivato al limite, diciamo, la sopportazione rispetto alla compressione del diritto, della normativa, del salario e quant'altro. Lo stesso Tito Boeri, presidente dell'INPS, qualche mese fa indicava in una nota che le esternalizzazioni non garantiscono risparmio, anzi è lo Stato con le sue amministrazioni decentrate che, avendo in capo la possibilità di gestire e controllare direttamente, può efficacemente operare risparmio. Quindi noi oggi vogliamo porre questo tema insieme a quello del riordino professionale degli educatori, cioè riaprire una stagione di reinternalizzazione dei servizi che negli ultimi 20 anni sono stati ceduti a cooperative che spesso, voglio dire, sono anche spurie, fanno del mercato, dell'impresa sociale, solo una questione di margine di profitto e non di servizio rivolto all'utenza. Mi confermi che venerdì una vostra delegazione, diciamo, incontrerà anche la Presidente della Commissione Lavoro al Senato? Sì, speriamo sia confermato, sembra che ci sia qualche problema a confermare questo incontro. Sicuramente incontriamo la funzione pubblica, alla quale portiamo le istanze sulla reinternalizzazione. In ogni caso stiamo prevedendo un incontro con la Commissione Istruzione al Senato in sostituzione, nel caso non dovesse esserci la Cadalfo, insomma abbiamo un piano B.